slick chick. See, a neat chick. The C's part of makes me tick. Mama, hey, hey, hey. Clickety click, a slick chick. Hey, hey. Hey, hey. A high heels on for the baby blues. Very first time, man oh man, yeah. It was a night. Yeah, yeah. But everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah, yeah. But even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stitch it. Yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She is a neat chick. But she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, clickety click, a stick chick. Yeah, yeah, yeah, don't yeah, you know she's a stick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Chick, chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click, click, click, click, chick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah, little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. E ben ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata di Slick Chick. E oggi, che giorno è? Oggi è l'8 febbraio, mercoledì 8 febbraio 2017. E come avrete intuito, stasera sì, bene e bene sì, parliamo di supereroi. E devo farvi una confessione, giusto per iniziare, e a me le storie sui supereroi mi piacciono un sacco. E lo so, la lotta del bene contro il male, chi ci difende dai difensori, i giustizieri, tutte queste robe qua, le interpretazioni che possono essere date a tutta questa cosa sono orribili, lo ammetto, ne sono consapevole. Eppure, togliendo dal mucchio tutti quei supereroi, proprio quelli solo brutti, propagandistici, tipo Capitan America, quei troiai lì, i supereroi hanno sempre di fatto un io tormentato, una personalità complessa e contraddittoria, insomma non se l'avevano mai bene, ecco, e questo me li fa stare simpatici, e tra l'altro pure i famosi villain, i cattivi, i cattivissimi, sono sempre qualcosa di più che semplici cattivi, almeno quando le storie sui supereroi sono ben fatte, ecco, e spesso tifi per loro, finisci per tifare per i cattivi, e tra l'altro i contorni di chi è buono e chi è cattivo comunque molto spesso si confondono, quasi sempre direi. E parlando di supereroi dobbiamo innanzitutto contestualizzare il territorio in cui ci stiamo muovendo, direi, ovvero i fumetti. Queste cose meravigliose capaci di catapultarti in altri mondi. E come libri, d'accordo, peraltro, e non solo, ma non proprio alla stessa maniera. un primo omaggio ai fumetti, lo facciamo ascoltando i Creation, una band inglese un po' psichedelica, un po' mod, forse più mod che psichedelica, e, con questo pezzo che si chiama Beef Bang Pow, tipica onomatopea da rissa fumettosa. L'album è del 1967, si intitola We Are Painterman, e ecco i The Creation. Creation Beef Bang Pow, 1967, come dicevamo. E, sempre su Radio Wombat vi trovate Slick Chick, e vi leggo subito dalla bacheca qui davanti i nostri social Wombat, così non mi dimentico di dirveli più in là, e poi siamo tutti felici e contenti. Il sito wombat.noblogs.org, dove ormai lo sapete, potete trovare un po' tutto, le registrazioni, podcast, novità, eventi vari e quant'altro. Il profilo Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook per voi giovinastri fissati con le cose socievoli, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la casella di posta postawombat@insiberia.net. Proseguiamo subito con la nostra scaletta, che oggi è abbastanza densa di cosette, e arriviamo ai Faith No More. Faith No More con un album in realtà nuovo, perché l'album del 2015, Soul Invictus, un album pubblicato 18 anni dopo l'ultimo che avevano fatto, e tra l'altro un album completamente autoprodotto. Il singolo Superhero, che poi è il pezzo che vi faccio sentire, come intuirete dal titolo, è stato pubblicato in anteprima sul sito della Marvel, ma è una scelta non voluta dalla Marvel, ma bensì proprio dai Faith No More, che ne hanno fatto richiesta. A detta del bassista dei Faith No More, grande fan di Silver Surfer, oddio, oggi dico delle cose strane, Silver Surfer, vi ricordate il supereroe, quello tutto tutto appunto argentato che cavalca un fantastico surf. Il pezzo, questo pezzo superhero, è pensato come una comic strip proprio, almeno loro lo vedono così. E il suono sembra quasi la colonna sonora di un film di supereroi che non è mai uscito e magari un giorno uscirà. Se siete particolarmente invasati, potete leggervi l'intervista a Billy Gold, il bassista appunto dei Faith No More, sul sito della Marvel, che in realtà più che un'intervista è una chiacchierata tra nerd sui fumetti, su cosa gli piace di più, cosa gli piace di meno. Ah, ma ti ricordi quello? Oh, quello spaccava! Tutto così. Però, insomma, in effetti è interessante, è così, lo devo dire, devo ammetterlo. Andiamo appunto a sentirci questo pezzo, i Faith No More, appunto l'album è Sol Invictus e il pezzo si intitola Superhero. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. And now, another exciting episode in the Adventures of Superman. Was it a bird? No, no. Was it a plane? No, no. Was it a buzzard? No, no. Well, what was it then? Mr. Superman. Was it a bird? No, no. Was it a plane? No, no. Was it a buzzard? No, no. What was it then? Mr. Superman. Questo era non Superman ma Stomp Gordon and His Orchestra con Ride Superman Ride, un pezzo del 1956 direttamente dal leggendario Savoy, dove la Wendy mi insegnerebbe Savoy Savorrò e si potrebbero fare mille battute, ma il Savoy era una leggendaria sala dove si ballava swing e quant'altro. L'Indie Hop, eccetera, eccetera. Ebbene, si ballava anche Ride, Superman Ride, questo bizzarro pezzo di Stomp Gordon. E il primo supereroe di cui vi parlo nel dettaglio, come avrete capito, è forse in maniera abbastanza ovvia Superman. Per i kryptoniani Kal-El, per i terrestri Clark Kent, creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1933 e pubblicato dalla DC Comics nel 1938, 5 anni dopo, insomma, di peregrinaggi per trovare una editrice. Superman è il primo supereroe che vede la luce, effettivamente ha un po' questo primato, sì. È un incrocio nato dalle fascinazioni per il mondo alieno della prima fantascienza di quegli anni e quelle del superuomo nicciano, dove però l'alieno, anziché dominare gli umani, vorrebbe in qualche modo confonderci, sì. L'uomo d'acciaio, come viene chiamato, preferisce di gran lunga essere Clark Kent piuttosto che Superman, e ricompare un po' malincuore quando l'umanità ha bisogno di essere salvata da se stessa. Peraltro, la storia dell'alieno Kal-El è anche intrisa di un sano catastrofismo ecologista, perché tutto ha inizio dal padre di Superman, che è l'unico a rendersi conto che il pianeta Krypton sta per esplodere, è finito, spacciato, morto, e completamente inascoltato dalle fazioni in lotta per il potere, decide di salvare almeno il figlio, e si scoprirà poi anche la figlia, mettendolo in una capsula e spedendolo sulla Terra. La figlia, già, dicevamo, Supergirl, la sorella di Superman, e quindi, visto che l'abbiamo citata, ecco gli Anduri, che almeno lui se la ricorda, e ce ne consegna un ritratto un po' impiastricciato e molesto, diciamo, come piaceva a lui fare. Gli Anduri and the Blockheads, Superman Big Sister. No secret. tanto per rimanere al Savoy, questo era Benny Goodman and His Orchestra con, non ci crederete, ma un pezzo che si chiamava Superman. Incredibile, no? E alla tromba c'era Cootie Williams e questo pezzo era del 1940. Ebbene sì. E dicevamo Superman. Da Superman in poi appaiono un sacco di supereroi. Non andremo in ordine temporale, anche perché comunque ce ne sarebbero davvero troppi, anche soltanto da citare, da ricordare. Ognuno di noi ha il suo preferito, almeno ognuno di noi nerd fanatici, e in ciascuno ognuno ci vede qualcosa di suo. I Suicide, ad esempio, un gruppo del primissimo punk, scelgono Ghost Rider della Marvel, ed è un'ottima scelta secondo me, perché si tratta di un biker, un motociclista, posseduto da entità demoniache che lo trasformano in un vendicatore delle ingiustizie del mondo. La storia di Ghost Rider è troppo lunga per raccontarvela tutta ora, ma vi invito a leggervela anche soltanto su Wikipedia, perché è un'odissea di riscatto davvero interessante. Tra l'altro, gran parte dei personaggi sono, oltre ad aver avuto innumerevoli sfighe, sono figli dell'immigrazione americana, sono messicani, portoricani e quant'altro. Quindi, insomma, non è niente affatto banale ed è interessante da leggere. Il film, invece, purtroppo c'ha Nicolas Cage come protagonista, quindi credo non lo vedrò mai e penso che non mi perderò assolutamente niente, credo neanche voi. I Suicide, nel loro testo appunto dedicato a Ghost Rider, dicono: il cavaliere fantasma, l'eroe motociclista, gira per le strade dell'universo intero gridando la verità. L'America uccide i suoi giovani. Ghost Rider, Suicide. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, he's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, blazing away. Stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Like the stars in the universe. Beep, beep, beep, beep, he's a screaming the truth. America's killing its youth. Thank you. E dopo i Suicide con Ghost Rider del 1977, pezzo che tra l'altro è stato rifatto veramente da un sacco di gente, tra cui mi viene in mente Harry Rollins, ma anche addirittura Anna Calvi o i Rem, insomma l'hanno rifatto un po' tutti. Questo che ci siamo sentiti invece adesso erano i Fall, The Fall, con How I Wrote Elastic Man, dall'album Grotesque del 1980. Non è proprio precisamente la storia di Elastic Man, perché il pezzo parla un po' più di questo scrittore di fantascienza disilluso, a cui tutti chiedono sempre soltanto come si scrive Elastic Man, ma ci dà comunque il pretesto per parlare appunto di Elastic Man, da molti chiamato anche Plastic Man, che è un altro supereroe della DC Comics, creato nel 1941. Il corpo di Plastic Man è composto di una sostanza malleabile, simile alla plastica, e sul quale il nostro supereroe ha il completo controllo e grazie alla quale può allungarsi, cambiare dimensioni e forma a suo piacimento. Il suo unico limite, come spesso succede, sono sempre queste piccole bizzarrie dei fumetti, è la scelta dei colori, perché può usare soltanto il rosso, il nero, il giallo, il bianco e il rosa. E non lo so, si vede che in tipografia vanno solo quei colori e va a sapere. Comunque può deformarsi senza limiti, cosa che lo rende virtualmente indistruttibile, e il suo unico tallone d'Achille pare essere la bassa temperatura, che ovviamente, come tutti sappiamo, la plastica, la gomma, se la sottoponi al freddo, si diventa tutta schifa e si rompe tutta. Plastic Man però deve le sue abilità incredibili, inenarrabili nel corpo a corpo, grazie a un durissimo e importantissimo allenamento con... che non si dica che a Slick Chick non passano pezzi di classe, questo era anche per tracciare un certo ponte ideale con la trasmissione che ci ha preceduto, ovvero Soul Time, in onda tutti i mercoledì dalle 19, ve lo ricordo. Questa era infatti Laverne Baker con questo pezzone intitolato Batman to the Rescue del 1966. Che dire, Batman è sicuramente uno dei supereroi più affascinanti, più che altro anche per tutto il mondo in cui si muove, Gotham City, la corruzione in cui è immersa, e i suoi meravigliosi cattivissimi che sono uno più figo dell'altro. Viene creato Batman da Bob Kane e Bill Finger nel 1939, quindi poco dopo Superman, e pubblicato sempre con la fortunatissima DC Comics. Virgolettato di Batman: i criminali sono codardi e superstiziosi, il mio travestimento dovrà infondere terrore nei loro cuori, dovrò essere una creatura della notte nera, terribile. Batman infatti non ha superpoteri, lo saprete, insomma, c'ha questo problema, però è ricco, tecnologico e comunque incazzoso. Il suo personaggio è proprio l'esempio di quello che dicevamo all'inizio, un oscuro vendicatore, tormentato, ossessivo, per niente ben voluto tra l'altro da gente che difende, ambiguo e in qualche modo a sua volta attratto continuamente da quel mondo oscuro che combatte. Basta pensare a Catwoman o agli stessi cattivi per cui lui ha sì un odio, ma in qualche modo traspare anche un po' una qualche fascinazione. Le tenebre illuminate da altre tenebre, insomma, un gioco bene male, niente affatto lineare, cosa che secondo me lo rende un fumetto veramente veramente importante, tant'è che insomma è arrivato fino a noi e ce lo siamo visto in mille modi e mille salse. Questi sono i Batmobile con Bat Attack. Yeah. dopo i Batmobile, che sono un gruppo insomma abbastanza noto nel panorama psychobilly, con questo Bat Attack, adesso proseguiamo e iniziamo a analizzare anche i fumetti, quelli che non sono così famosi come Superman e Batman, che insomma sono i più ovvi. In particolare adesso vi introduco un pezzo che racconta del Giudice Dredd. Giudice Dredd, ispirato a un fumetto futuristico del 1977, scusate, il pezzo è ispirato a un fumetto futuristico del 1977 che si chiama appunto Dredd, Giudice Dredd, Judge Dredd. Il pezzo che vi faccio sentire è degli Anthrax e si intitola I Am The Law. Il Giudice Dredd infatti è un super poliziotto che spadroneggia, diciamo, nella megalopoli post-atomica di Mega City One, nome insomma molto fantasioso. Il fumetto è brutalmente ironico, parodistico mi verrebbe da dire, e sicuramente anti-autoritario. Molto, molto, molto probabilmente una neanche troppo velata critica e frecciata all'Inghilterra di quegli anni. Così come peraltro è il pezzo degli Anthrax che, giusto a rimarcare tutto ciò, non fu trasmesso in radio in Inghilterra perché è giudicato troppo osceno. Ecco, più che osceno, secondo me, non gli andavano diverse altre cosette, insomma, che gli Anthrax dicevano in questo pezzo. Questo super poliziotto Dredd, insomma, di fatto è una macchietta e compie un po' tutto quello che gli pare in nome di una sua etica personale piuttosto distorta e di fatto è una ovvia critica al superpotere della polizia e dello Stato in Inghilterra in quegli anni. Si potrebbe dire, insomma, che questo pezzo rimane ascoltabilissimo e attuale e interessante e bellissimo anche adesso. Quindi ci ascoltiamo gli Anthrax, I Am The Law. L'album è Among the Living del 1987. We'll be right back. Gli Anthrax con I Am The Law, che probabilmente è una delle cose più metal che sentirete mai da me a Slick Chick, dato che non sono proprio un amante del genere, ma gli Anthrax comunque sono sufficientemente hardcore per piacermi. Dopo abbiamo sentito gli Swampies, gruppo psycho, rockabilly, anche questo abbastanza famoso, belga, con Iron Man. L'album è Come Back to the Swamp del 1989. E prima di continuare con la scaletta, vi voglio ricordare, prima vi accennavo della nuova trasmissione Soul Time, che è un po' di settimane, un paio di settimane mi sembra, che è iniziata prima di me, al mercoledì alle 19, ma ce n'è un'altra nuova, nuova, nuova di pacca che sta per approdare ai microfoni di Wombat Radio, che si intitola Mortal Wombat, con un nome beh, un po' così, che comunque già la dice tutta. Vi leggo direttamente la introduzione loro, così non ci sono problemi di malinterpretazione. Mortal Wombat è un programma di diffusione di musica e cultura hip hop che nasce dalla volontà da parte di alcuni appassionati di questo genere musicale di far conoscere al pubblico l'hip hop nostrano in tutte le sue sfaccettature, dal funk al cosiddetto rap militante, dallo storytelling al crossover, passando per le tracce e le sfide di freestyle che per testo, metrica e flow sono considerate tra i capisaldi del rap italiano. Ci faremo largo nello spazio e nel tempo per proporre brani e mailing list uniche ed underground, chicche, riesumate dalla montagna di materiale audio che non dal web, andando contro alla logica usa e getta tipicamente consumistica che lascia alla musica un tempo di ascolto e riscontro reale pari alla scrollata di un mouse. Il nome Mortal Wombat vuole essere un tributo alla saga di videogiochi Mortal Kombat che dal 1992 propone ai giovani annoiati sfide all'ultimo sangue contro i compagni di banco. I protagonisti dei combattimenti non saranno più atleti muscolosi, ma tenerissimi wombat, marsupiali australiani che scavano lunghe gallerie sottoterra per procacciarsi il cibo. Insomma, una crew di marsupiali underground. La nostra sfida all'ultimo sangue, prosegue la descrizione di Mortal Wombat, non avrà né vinti né vincitori, ma a trionfare saranno rap, hip hop e storytelling, colpendo a suon di rime, cassa e rullante il silenzio dei grigi pomeriggi metropolitani, facendo oscillare teste e braccia degli spettatori e delle spettatrici. Ogni traccia riprodotta sarà condivisa sulla pagina Facebook Mortal Wombat, promettendo agli ascoltatori e agli appassionati di riprodurre e scaricare i brani proposti. Inoltre, saranno presenti nozioni storiografiche, autore, titolo, album, anno di registrazione o informazioni su tematiche politico-sociali che permeano molti testi appartenenti al panorama hip-hop. Quindi, che altro dire? Quando? Il venerdì, tutti i venerdì, alle ore 17, sempre su Wombat Radio o Radio Wombat, che come preferite. Questo era per le novità di questa settimana che riguardano il palinsesto di questa radio. Ma un'altra cosa che vi devo dire prima di continuare con la scaletta sono gli appuntamenti dell'agenda underground, come direbbe Mortal Wombat, di questa settimana. Iniziamo con, oddio, ho sbagliato settimana già? No, ecco, iniziamo con domani, giovedì 9 febbraio, al Next Emerson, una serata del collettivo Nuovi Rumori con un concerto che, nonostante sia di giovedì, è un concerto che potrebbe riservarvi non poche sorprese, perché oltre ai Dora Maar, che sono un gruppo post-punk di Firenze, e Paul Sintetico, cosiddetto Casio Core di Prato, ci sono anche i Qui, Avantgarde Rock Weirdos, così li definiscono i rumori, che vengono da Los Angeles e che si riallacciano tra l'altro con l'inizio di questa trasmissione perché sono editi dall'etichetta Ipecac Recordings di Mike Patton, Faith No More, eccetera. Insomma, questa etichetta è un'etichetta direi abbastanza famosa che ha ben poco bisogno di presentazioni e che però insomma, tra il novero degli artisti che ha prodotto, artisti, oddio, che brutta parola, musicisti, ecco, che ha prodotto, insomma, ce n'è diversi abbastanza indimenticabili. Mi vengono in mente, ovviamente, a parte tutti i gruppi di Mike Patton, Affini, Fantomas, Tomahawk, Peeping Tom e quant'altro, ma anche gli Zoo, oppure anche Ennio Morricone. Anche Morricone, tra l'altro, è uscito per la Ipecac Recordings. Insomma, un'etichetta che direi definirei curata, ecco, quantomeno, e quindi vi consiglio di venire a questa serata perché potrebbe essere non poco interessante. Questo appunto succederà domani, 9 febbraio, al Next Emerson. Invece, sabato 11 febbraio, alla Polveriera, C'è una giornata che si intitola Primitivo Presente. Ecco, già mi sono persa la pagina mentre andavo a cercare le altre cose dei rumori. Primitivo presente dalle ore 17, cortocircuiti tra tempo e storia, arte contaminata e vibrazioni ataviche. Alle 17 apertura con un'esposizione di Michele Vannucchi sul sito della polveriera, lapolveriera.blogspot.de, trovate tutte le informazioni. Alle 19.30 aperitivo con selezione musicale a cura di UR, progetto UR, anche qui vi rimando al sito per ulteriori informazioni. Alle ore 21 Lampreda sonorizza dal vivo Le Maître Fou di Jean Rouch e alle 22 FFFF DJ Set Wild Groove Based Tunes. Questo per quanto riguardava sabato 11. Invece domenica 12, sempre alla Polveriera, ci sarà il mensile Mercato Contadino delle Autoproduzioni, questa volta seguito dall'aperitivo e concerto dei Monkey Ranch. Quindi, insomma, vi esorto a godervi questa settimana di appuntamenti fiorentini nel sottobosco di questa città. Ma basta, ho detto tutto quello che vi dovevo dire e quindi siamo liberi e felici di tornare alla nostra scaletta. E torniamo alla Marvel, perché più che altro abbiamo parlato della DC Comics, ma insomma anche la Marvel ha fatto delle robette non da poco. Torniamo alla Marvel e a uno dei suoi personaggioni in particolare, Hulk, l'incredibile Hulk. Creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1962, è un certo incrocio tra una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde e Frankenstein anche. Tant'è che nella prima versione del fumetto, che ovviamente era pubblicata in bianco e nero, Hulk era grigio e quindi assomigliava ancora di più a Frankenstein. Quando si è scoperto che in realtà potevano esserci un sacco di colori a disposizione, abbiamo scoperto che Hulk in realtà era verde. E questo ha dato delle sfumature piuttosto interessanti alla questione. Il timido fisico nucleare Bruce Banner si trasforma nel mostrone verde quando le sue emozioni non possono più essere contenute ed esplodono. Solo dopo essersi sfogato in questa maniera ed aver spaccato tutto, Hulk si calma e piano piano torna a essere il povero Bruce Banner con i vestiti tutti spaccati. Trappati, come tra l'altro Lou Ferrigno nella serie ci ha abituato. Generalmente il mondo non la prende bene e Hulk viene un po' malvisto, obiettivamente. Un po' come l'invitato, non lo so, un invitato di serie B, l'amico quello che tutti schifano alle feste con cui nessuno parla, una cosa del genere. Sarà per questo che Trace, un gruppo garage newyorkese, ci ha fatto un pezzo. Il cui ritornello fa Nobody Loves the Hulk, lo dico all'italiana, except you and me. We don't allow no green skin people in here. Ovvero, nessuno ama Hulk, eccetto tranne, cioè, tranne me e te. Non si accettano persone dalla pelle verde qui. E qui si aprono mille sfumature di interpretazione, ecco. Quindi vi faccio subito ascoltare The Traits con Nobody Loves the Hulk, nel 1969 siamo. Nobody loves the Hulk, baby, you and me. Don't allow no Questi erano gli Inferno, gruppo romano della scena grande rock and roll hardcore di qualche anno fa, di cui già vi avevo parlato e fatto sentire un po' di puntate fa. Il pezzo si intitolava Me vs. The Incredible Hulk. Vabbè, comunque, a parte l'incredibile Hulk, diciamo che la figura del supereroe, abbiamo capito ormai, che viene usata davvero in mille modi diversi. Negli anni si è parlato di vendicatori, giustizieri, ma anche antieroi e anche, fra l'altro, questa cosa che va un sacco di moda, dell'eroe di tutti i giorni, gli eroi quotidiani. Il supereroe, oscuro, alieno o quotidiano che sia, ci libererà tutti e sicuramente ci aiuterà a rendere il mondo un posto migliore. Questo l'abbiamo capito e ce l'hanno fatto capire per diversi anni. Come, ad esempio, fa il super giovane insieme a Catoplefa lottando contro il governo e i Maturin. Oklahoma! Sigarette! Puttano! Vagina! Acciugo, Garelli, Marmitare, Figa, Figa Pelosa, figlio di puttana, porco nigger. Ma ragazzi, ma io lavoro tutti i giorni, tiro il carrello, scarico la frutta nei verzieri, ma arriva il primo fesso, con la moto scura e gente mi sveglia. Fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma in chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go, go, go, go, go, governo. Lui li stordisce con le fiale puzzolenti, poi li subissa di cingomma nei capelli e li finisce sputazzando il riso con la penna Vic. Mi piace quel ragazzo perché sto diventando forse ricchione. Governo in Matusa con grinta e simpatica per come quel matto di Super Giovane. Super Giovane. Sudolo il governo si avvicina, travestito da piscina, traboccante di analcolico biondo. Il giovane si tuffa nella vasca come un vero giamburrasca, ma a contatto con il liquido esclama: ma vaffanculo, questo è il terribile analcolico moro, aiuto Super Giovane! Scatta Super Giovane ed erata soccorrendo il catoblepa che purtroppo sta tirando le cuoia. Eccomi qua, ragazzo! Attimo, Super Giovane, per me ormai è finita. No! L'analcolico moro è entrato in circo. Non dire così, amico catoblepa! Ecco, prendi questo! Ma cosa? Sì! Catoblepa! Catoblepa! Giovane da fuoco a uno spinello, ecco col quale affumica il governo che all'istante passa all'uso di eroina e muore pieno di overdose. Mi piace quel ragazzo perché sto diventando forse ricchione, ma ditemi soltanto se c'è qualcuno che affronti il governo in Matusa con grinta e simpatica per ricette, il governo esplode, i suoi fratelli in cielo compongono la scritta zio cantante, che sta a significare lo scorno dei Matusa, mentre i giovani limonano felici esaminando giornali tipo l'anno che ritornano alla luce dopo un'era di arbitrario oscuramento, grazie al proprio intervento che operò quel sacramento di super giovane, super giovane. Persone, cose, animali, città, fiumi, governi, marche di automobili che cercano di limitare la vostra gioventù, là ci sarà lui con le sue vincette sempre accese. Perché super giovane è allegria più, Bulgaria più, Satangia più, più, più. Aperitivi. Sì. Diario di Rorschach, 12 ottobre 1985. Carcassa di cane in un vicolo stamattina, tracce di pneumatico sullo stomaco spappolato. Questa città ha paura di me. Io ho visto il suo vero volto. Le strade sono lunghi rigagnoli e i rigagnoli sono pieni di sangue. E quando alla fine le fogne si ricopriranno di croste, tutti i parassiti affogheranno. Il sesso e i delitti accumulati come sudiciume li sommergeranno fino alla cintola. E le puttane e i politici guarderanno verso l'alto e grideranno: salvaci! E io sussurrerò: no! Ora il mondo intero è in bilico, contemplando quel dannato inferno sotto di sé. Tutti quei liberali, intellettuali e melliflui chiacchieroni. All'improvviso nessuno sa più che cosa dire. Sotto di me, questa orribile città urla come un mattatoio pieno di bambini ritardati. E il crepuscolo puzza di fornicazione e di coscienze sporche. Ecco, basta con gli eroi, basta con i supereroi, basta. Avete mai letto Watchmen? E il film? L'avete mai visto il film? No, dai. Allora, il film, boh, se vi va, guardatelo, ma vabbè. Più che altro leggete il fumetto, ve lo consiglio assolutamente. Watching Us, Watching Them, Sorveglia il Sorvegliante, Alan Moore, 1986, e boh, no, in realtà non credo che serva veramente dire altro. È un fumettone che solo Alan Moore poteva fare, solo Alan Moore poteva condensare di personaggi uno più emblematico dell'altro. Questo che abbiamo appena sentito era Rorschach tratto dal film, certo, perché i fumetti purtroppo ancora non parlano in audio. E comunque viene un momento in cui ci si stufa e si decide che alla fin fine ci si può fare anche da soli, che non abbiamo più bisogno di eroi e di supereroi. E quindi, come ultimo pezzo, io mi sento di lasciarvi con The Stranglers e No More Heroes. Basta, per chiudere questa parentesi dei supereroi e degli eroi e aprire un mondo nuovo di autogestione e dove facciamo le cose da soli e ce la caviamo da soli. Ma detto ciò, vi saluto e vi lascio, cioè vi lancio l'appuntamento a mercoledì prossimo, e sempre intorno alle 9, sempre dopo Soul Time, più o meno. Nel mezzo c'è un po' di bobinone, ma insomma è giusto per darvi il tempo di mangiare. Quindi ricordatevi sempre wombat.noblogs.org, Radio Wombat o Wombat Radio, come preferite, e a mercoledì prossimo su questi microfoni. Ciao ciao! Shakespeare.